con Fabrizio Ferrari, direttore del Rome Independent Film Festival, al nuovo Cinema Aquila dal 16 al 23 novembre. Fabrizio, ben trovato. Ciao, grazie, bentrovati a tutti voi. Cosa ci riserva questa edizione? Una ricca edizione con oltre 100 titoli, tutti in anteprima italiana. Abbiamo circa 25 anteprime mondiali, anteprime europee, il resto, ecco, sono tutti film in anteprima italiana. Le sezioni sono la sezione lungometraggi, documentari, italiana straniera, e una sezione di cortometraggi con oltre 50 corti, sia dall'Italia che da diversi paesi, insomma. Come sarà strutturato il festival? Beh, innanzitutto ci sono tantissimi registi stranieri che verranno qui a Roma a presentare il loro film. Cominciamo per esempio con il film We di René Heller, che è stato a Berlino quest'anno, una coproduzione Olanda-Belgio, un film insomma abbastanza forte. Lo presentiamo alle 8 alla Sala Magnani, la Sala 1 del nuovo Cinema Aquila, e poi a seguire un documentario tutto italiano che si intitola The Fifth Son di Cristiana Pecci e Matteo Maggi, che è un road film girato dalla Finlandia fino all'Australia, tutto in un furgone, per andare a vedere insomma questo solstizio australiano. Insomma, ecco, diciamo tematiche varie dal sociale, ambiente, insomma la sezione documentari molto ricca, anche tra i documentari italiani, e mentre invece ecco i lungometraggi e i cortometraggi partiamo dalla fiction, film, tematica, thriller, abbiamo anche un horror, insomma veramente un programma ricchissimo. E poi ecco ci sarà la possibilità di incontrare i registi in sala e quindi fare domande, ottenere risposte. Abbiamo anche tre masterclass durante questa settimana, una sul pitch, sullo script, su come scrivere una storia con Dario Gorini, poi abbiamo una masterclass con Giacomo Mantovani sul mobile filmmaking, ovvero come girare su un telefonino, e abbiamo due cortometraggi in concorso girati con un telefonino, una risoluzione naturalmente ottima, e poi l'ultima masterclass sui visual effects con Bruno Albi Marini, questo giovedì 22 alle 18, il titolo è Dal male inevitabile alla creazione di immagini. E quindi, insomma, un programma, diciamo, come ho detto, lo ripeto, abbastanza ricco, direi, quest'anno. 17ª edizione, qual è la vocazione con cui era nato questo festival? La vocazione con cui è nato e la vocazione che continuiamo insomma ad avere è quella di presentare opere prime e seconde per la sezione lungometraggi, e poi invece ecco la sezione documentari che ha circa 20 titoli, 10 italiani e 10 stranieri, e la possibilità anche di far vedere in anteprima le nuove promesse. Infatti abbiamo 20 cortometraggi italiani in concorso, tutti in anteprima, diciamo quasi mondiale. 8 giorni, quali saranno le fasce orarie? Dalle 4 a mezzanotte abbiamo cercato di inserire i lungometraggi italiani e stranieri nel programma delle 8, 8 e mezza, e mentre invece i documentari saranno tutti programmati circa verso le 6 e mezza di pomeriggio. Abbiamo cercato di far intervenire insomma studenti di alcune scuole proprio per avvicinarli al cinema, specialmente per alcuni documentari con una tematica particolare. Per esempio presentiamo domenica 18 Vinilici, un documentario di Fulvio Iannucci tutto sul vinile, oppure ecco c'è un documentario straniero Sombra de Luz, dove ci sarà in sala il regista e anche la figlia di questo fotografo, quindi un documentario che tratta di questo fotografo argentino, quindi diciamo tematiche molto interessanti. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per seguire la programmazione? Certamente sul sito rif.it potete trovare proprio il programma completo, le schede dei film con le sinossi, le foto, i trailers, le biografie dei registi in italiano e in inglese, tutto il programma, gli eventi speciali, quindi ecco rif.it, o se no su Facebook, su Twitter, su Instagram. Su Instagram, per esempio, abbiamo cominciato a pubblicare tutte le foto e i poster dei film. Dimenticavo anche la sezione animazione, molto interessante, dove presenteremo per esempio una serie animata, Verrà un giorno, che è un progetto che prevede lo sviluppo di una serie animata a puntate, proprio sullo stile delle animazioni satiriche americane, no? Tipo i Simpson, molto divertente, tutta italiana, e quindi ecco, questa invece domenica 18 alle 20:30. 17esima edizione del Roma Independent Film Festival al Nuovo Cinema Aquila dal 16 al 23 novembre. Un saluto e un ringraziamento al direttore Fabrizio Ferrari. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, ci vediamo al Cinema Aquila allora, da venerdì 16. Ciao. Ciao.